Esatto, di Roger, ne parliamo un altro momento, dai, se non ti disturbo ti faccio uno squillo di bassa verso le 10. Ehi, non c'è problema, io sono qua a casa. O sono qua in radio, sto guardando la televisione, comunque qua è sempre tutto acceso, Tanto ci sei e ti mettono in mezzo, non ci sei e ti mettono in mezzo, quindi tanto vale non esserci, cicci. Dai, ci sentiamo più tardi, al limite al telefono. Tu. Ciao, stammi bene, buon proseguo. Ciao, Roger, ciao, ciao. Via Gransi, abita. Via Gransi. Ma dove c'è il Montenegro? Di quella via lì, Guarda me, è nuova per me, mi giunge nuova. Io la vedevo sempre lì, in via Retretto, poi, non lo so, si è cambiato abitazione, non lo so. Tu capita in via Granzi, è una persona che lo conosce da piccolo, te lo può confermare, perché me l'hanno detto. Io non lo so, Bomboli, non lo so. Scena, E ho detto già a Bombolino, ho detto che tutto non devi fare bombolaio, tu devi fare l'imitatore. E io lo fa preciso. Ma se guarda, è uguale. A Roberto già lo conosco bene, non vedo quasi tutti i giorni lì in Viale Dante, immaginiamoci. Poi ti vedo, dico, dico, come pure la roba. Abbiamo messo in ambulanza perché è stato male. Cazzo, ci abbiamo pensato un po' e più. Una volta hanno educato Rami con la macchina ed è caduta e cosa, vabbè, non si è fatto niente. Io non sono preoccupato per me, ragazzi, sono preoccupato per la moto, ragazzi. Chi moto è? Yeah. Adesso guida anche la moto. Va, da sempre. No, prima aveva la bicicletta, diceva che voleva qualche spicciolo per mettere la benzina, Rubiene, una bicicletta che c'era in cabina, però Rubiene era paese, più una bolla di birra così, il posto Rubiene. No, poi mi resto con una tasse, coca. E adesso c'è uno scarabeo bianco, tutto con questi adesivi, cazzo. Ci vuole più la marmita che la moto, cazzo. C'è una marmita, il Polini, cazzo, guarda, nuova, cazzo, ho detto. Ci vuole più la marmita del cazzo che la moto intera. Mi vorrei comprare la moto nuova, rubato, non ha voluto, si che andava a Vegissa. Adesso ritorna più famiglia. Non dorme più nel garage allora. Ma questo sia sempre lì. Ma se dice che la famiglia c'ha solo. Non si crede, è una famiglia normale. No, a me mi hanno detto che sono delle stampe. Vabbè, non esci tu male. No, non è che ne esci tu male, li vita tu usci. Che fanno lavoro a bandiera gialla. Faccio un pure di degli, mi sembra. Lui soldi prendermi a birra e a pagarsi, dai. No, lavora ancora a bandiera gialla, tu lavora ancora come lava piatti. Vedate, 600 euro. Ah, sì. Quindi, tutta la sua passione, paramo, fatto un poco di benzina, la moto ne impara, ne pone 2 euro, maledetto. E fa la birra, fa mangiarsi a che cosa e fa, strombazza. Cosa da fatti? Ma quello ritira lo stipendio? Ecco, 600 euro. Ce ne sputterà in due giorni, perché va anche a puttane, hai capito? Sì, lo so, ma vuoi fare la gente a bocciata? L'altra volta, mi cazzo, mi sono fatto questa cinese, cazzo, me l'ha succhiato tutta quanta, ho detto, la gara te l'ho dato, fatti lì, ho detto, che è vero, già fa, sta andando una spagnola. E l'hanno visto, cazzo, ma come me, cazzo, ne aveva visto il cazzo di là, e non aveva fatto un cazzo. Oggi mi fai ridere, come sei già? Fluidi. Una scena, raga. È una scena veramente, guarda. Con questi qua che sta frequentando, sta diventando più ricoglionito cazzo degli altri, tre cazzo che ci sono. Cinco. Massimo è lui, cazzo. I tre dell'Ave Maria. Forse sono i zincu dell'Ave Maria. E vabbè, ci sono più. E poi c'è quello che ha detto, lo proscetto, ma da me te lo proscetto. Proscetto. E come fai di sempre, dato con quei pantaloncini corti, con le cose le cuffie nelle orecchie, che c'è un modo strano di parlare. Danilo sarà. Ah? Ma sarà Danilo. No, perché sul masciottino fa entrato. Sì, vabbè, la testa mia, mio. Tu. Adesso mi viene in mente. Ma sta con Roberto sta sempre, o no? Nella greppa lì, tu non hai fatto la greppa lì. Sta lì nella greppa, no. Una di casa dice che l'hanno acciaffato. Fatto che questo è omosessuale, si è capito. L'hanno acciaffato dentro la farmacia. Di Simo, tanto quelle si fare il culo, l'ho preso. Ma non ti ho capito che stai dicendo. Hai capito? E che su questa sempre con Roberto. Quello lì, che l'hai cazzo, hanno già fatto cazzo. Come avevo raccontato cazzo qua, non ci volevo credere, cazzo mica mi hanno circolato, vedi tu era ammalato con un dottore che era lì dentro, capito? Cioè, si è avuto un dottore di trovare la scima. Già, guarda, quando ci ho fatto cazzo che il dottore ci sta facendo il culo a lui, hai capito? Nella farmacia, era periodo di chiusura, alla notturna, allora hanno chiuso, ci ha dato una scusa lì, e lui dormiva a casa sua, a casa di questo dottore, e avevamo trovato. Senti le cose, a me gente che è sicura che me l'ha detto, gente che lo conosce abbastanza bene. Ho capito che stai dicendo, sempre con Roberto, che guida anche la moto. Sì, una moto, oppure sempre con questa, si crede di essere un atleta, capito, sempre con questa specie di coso con il computer, capito, la cosa del computer. Ma come, Magrolino e altro? Eia. Sta sempre via le Dante, da quelle parti lì, mo. Ehi. Ma chi si conosce? Eia. Sapevo. È mezzo macocco, macocco. Mezzo, è tutto macco, è preso, tutto macco, cazzo, per carità. E lo vedi, cazzo, sempre, ogni giorno, cazzo, non ho capito, ogni giorno lo vedi con cazzo, con un cellulare nuovo, appena comprati, subito voleva fare l'affare lui e vende, sono capito. Manco una settimana, già ne aveva un altro, è capito. Deve essere il regalo per i servizi. Ma io ho fatto metà, lui faccia perdere, lui a cambio, fa scambi, capito? Questi cellulari. Perché c'è Mattimano che lui di cellulari li riesce a procurare abbastanza bene, gratis, hai capito? E fa scambio con questa persona qua, capito? E fa gli istanti, hai capito? Da poco c'aveva un cellulare che costava 550 euro questo cellulare, che non so che marca è, però tutto quanto bello, digitale, tanto fotocamera, MP3, tutto quanto, con 550 euro, ho detto. Allora, ma non da cazzo niente di questo cazzo il cellulare questo qua. Oh. Sarà il Galaxy. Sarà quello lì, penso sarà quello. Ma bello, non sembra un coso di quelli, questo è il mio cellulare, quello che ho fatto lei. È un più stretto, con tutto quanto, che puoi andare su internet, navigare, tutto, cioè tutto quanto questo cellulare. Allora stavo dando una cazzata, 150 euro sta lavando. Ne ho un altro fissato con il cellulare, non so cosa lo usare, non è un po' di ciccio. Poto di ciccio? Sì, cosa? Campos. Non è nipote, tu stai dicendo cosa, quello là, poi c'è un altro che deve rifare il cellulare, capito? C'è uno che deve rifare il cellulare, capito lì? Si chiama Antone, me. Ah? Tony, Pantone. Il panto di coppo, e lo mettere un pigiama. C'è sempre chi prendeva cassa. È Massimo, ti sto dicendo, quello è Massimo. Ma di Massimo stai parlando tu? Ah? Parlando di Massimo. Ehi? Ed è Frocio. No, Massimo non è Frocio. Non è Frocio. Frocio è quello là, quello magrolino. Ah, e Massimo fa quel lavoro e si prende il cellulare e cose. Massimano. Massimano. Se noi lo chiamiamo, se però lo chiamiamo Massimano. Già lo so, Frughi si è fissato con il cinese. Me. E lui c'ha la cosa, cioè l'arancio ittico, tutta quanta carta consumare, grazie. C'è stata la lancia ittico, la Y10. Quella lì, c'ha. intanto Marco, cazzo, si faceva i viaggenti lui a portare la roba a me, cioè capito, nel furgone bianco. Non lo sai, non l'ho mai preso, l'avrai visto, no? Te lo so, dici che sei andato a chi sudava troppo. Certo, per portare il cazzo 30 cazzi di birra sudava troppo, e poi erano i peroncini, capito, lui cosa andava a consegnare dalla vita a vari settori di circoli, no? Se lui forniva solo i settori di circoli. Sudava troppo. Adesso, avanti già. Una ambasciata di una giornata come ti ha giocato io, mi furia. Che c'è solo una consegna a tre viaggi in Mansarda, Ciri, carico di roba, un carrello. Carrello. Tre volte, è alta del fara da sesto piano. Figlia. Ciao. sai cosa vuol dire Luca, Luca la fame, ah già, per soddisfarti ce ne vogliono due pizze a te. Vabbè, non due, no? Ho fatto con la mucca di mira buona, fresca fresca. Sta facendo, ma come si chiama Salvatore Paragricola quando si chiama? Si chiama di tutti i colori, ma la Mandalir, Malvenier, insomma, un po' tutto. Cazzo, magari, io ho trovato il soprannome Luca, io t'ho soprannominato Luca di Montezemolo. Io Luca del Monte. O del Monte, già. Luca del Monte, lui abita a Monte Rosello, quindi Luca del Monte. Lei prendi Bovoli. A proposito di Luca del Monte, Roberto Quadrato, per seguito la fetta. Un attimo. Roberto Quadrato, no? Roberto Quadrato, non lo sta più modulando, non l'abbiamo più sentito. No. E non abbiamo più sentito cosa, quello che abbiamo trovato su a San Francesco, chi era già? Coccondo. Non ho più sentito neanche a lui. In realtà sera era al Quadrato. Strano. Ma era anche un ben cazzato perché aveva problemi col baracchi, ha detto che probabilmente lo modulava a dire. Voi era fatto danno. Ma dice che non rispondeva ad alcune cose, non so cosa ci avesse, qualche problema all'apparato, dice che era tintite, che c'è un buffumo, non so cosa. Avrà bruciato qualche finale. Sì, perché questi fili vaganti, a me non mi piace ne assai, a me piace l'antenna fissa, che non si veda il filo, tutto ben fatto. Questi fili volanti così, basta che tu inciampi con la scarpa e facci tutto. La luce aveva, qualcosa accanto da accendere i sigari. Ma io gli ho detto, cazzo, ma tu, come fai tu a modulare con qualche cosa, con questi fili, filetti? Ma direttamente il capo, direttamente la batteria, con un portafusibile, e sei tranquillo. Sì, ma probabilmente lui lo deve togliere perché la macchina non era la sua, quella di qua. Della mamma. Oia, Mormorino, caduto ci sei. Ha detto un attimo di bianco, che arriva una salvata. Luca, non lo so se sta riprendendo. Luca, di Montezemolo, ci sei o ci fai? Luca è così, entra e poi scompare. C'è entra Luca dove vuole entrare. Tu? Noi qua? Ah, è ora tu. Ti abbiamo lanciato, però non hai risposto alla chiamata. Sono detto bianco un attimo. Così andata ti ha capicolino? No, sa fare una cosa. Oh yeah, allora già. Hai mangiato bene stasera? Sì. Volante, una mozzarella così, un po' di salata di mare, così, roba volante. Io ho mangiato solo, l'anguria tagliata, ho mangiato solo quella. L'anguria, bene. La frutta la mangiumbe, è una pesca. Stasera non è che ne avessi molto avuto di mangiare, ho mangiato così roba fresca da più che altro. Bisogna mangiare roba fresca già, per entrare bene nel corpo, perché stai sempre stato a mangiare fatta, e alla fine è stato, quando ho fatto è stato per entrare pure dalle orecchie. A me la pasta piace, ma non li posso mangiare. Io se non mangio pasta e pane dimagrisco a vista d'occhio. Mi sono mangiato un po' di minestrina e poi mi sono mangiato un po' di olive. Ma erano buone, di quelle nere. Nocciola. Mamma mia. Per accettare nocciola, vuole con nocciolo. Ah, no, sono buone con le senza nocciolo, perché una tira l'altra, come le cose, le mortarelline piccoline. Pesci 10. Dico una cosa che è la stessa cosa per me, anche per riesci a mangiarlo subito. Ma le cose, ma il nocciolo l'hai buttato, sì. Allora la mattina mi ha attaccato in culo, no? Pantone. Ah, ma hai detto cazzo deve capitare sempre così, cazzo, dopo poi dice perché cazzo, cioè, la gente non si deve offendere, boh. Però io quelle lì le faccio, olio, facciamo le peperoncino, le diamo di cheggio nel luzzo. Ma, esco un bombo. Se lo faccio per ridere, se no qua non si ride mai. Ci sono altri modi di ridere, già, altro senza dire pregnaccia, hai capito? Ci sono altre cose da dire che si può ridere, si può raccontare una barzelletta, si può dire cose divertenti, senza dire parolacce però, E chi parla? È cosa che io dico parolacce. No, se mi metto a dare, lascia perdere, dai, va bene così, dai. Oh, vabbè, va bene così, dai, non ci sono problemi, non problemi. Cioè, specie quando sei cazzato con il principale di Alghero, o io, i cantoni di... per carità, lascia perdere cazzo, dice che il studio è partito a Torino. Ma viaggio è solo andata? No, deve fare anche il ritorno, perché deve... è andato per fare una questione a Torino, e già il suo è andato, e se no la lega di Lina, cazzo non è lì, cazzo... ti rompo veramente il culo io, già. Mi vedi che dici, vabbè, ma adesso perché hai capito, però io, cazzo, lasci l'ombre adesso, adesso io domani di telefono e voglio vedere cosa mi dice. Tanto lui mi ha detto che domani mattina rientra al ghetto, dunque... io per lunedì voglio i soldi, poi faccia quello che vuole, non mi ha fatto nulla. L'ha pagato. Ma me le dà tutti. La metà del buio, meno 350 euro buio, capito? Cioè, meno 350 euro. Poi per il resto me le dà quando gliene chiedo, hai capito? Via, per carità. Io sperando che lunedì mi chiami quello là, quello mi ha fatto fare una mezza giornata e mi richiami lunedì, almeno che ci sia lavoro, quella cosa là, quella campagna, e per fare ristrutturazione, hai capito? Anche come il manovale, ma non c'è nulla. Vado, tranquillo, entro. Cioè, tu puoi venire anche alle 9, anche ne puoi andare via anche alle 5 e mezza, sì. Paga, un po' di prima. Paga, stavo ancora vedendo, stavo. E tanto ne vento la fumare. Come vai a vedere la vita l'azzurra? Sempre, A me mi piace, la sera sempre allegro. Ma com'è, non hai mangiato il riso o altro? Non mangio, come ha detto ieri. Vabbè, allora vedi, che coincide. Chi mangia il riso ogni giorno, c'ha la risata tutto il giorno. Ma, dai, non la voglio dire la rima, però già mi avete capito, dai. No. Già mi capito. Questa è cambio. Ciao. anche a lei, avanti, andù. Va, Giuseppe. A sentire. Ho sentito un'altra parte, si fa sentire. Ho detto, mi lavorare per Paolo, ogni tanto ti fai sentire. Papa, papa, ogni tanto mi faccio sentire. Allora, che fa? Cosa mi racconti di bello? Dimmi cosa vuoi che ti racconti, io te lo racconto. Ma hai passato la giornata? Ecco, ho passato la giornata, grazie, te me la passa. Vabbè, facciamo che avevate lavorato un po' di più. Un altro di più? No, come al solito. Cioè perché? Perché cioè adesso è il periodo delle ferie, no? La gente prende la bombola prima che il coso chiuda, capito? Il negozio chiuda. Facciamo che la gente si ripulisce prima che andasse in ferie, capito? No, adesso vediamo molto nel fine settimana, perché la gente nel fine settimana si mette a fare le frattelle per il carnevale, quindi consuma un po' di più. Ah, caffara, ne prendi tu già. Ehi, ehi, grazie per lo riposo. Perché tutte le stufe erano fermate. Molto promesso di città è stato impiantato in cena alcune case. E quindi un po' si è abbassato, molto di un mezzo, già si è riprovato la grande. Ma è troppo le precisioni già. Io? Sì. Guarda adesso per passo. Minuto. L'ho mosso con la mano, deve essere. Come capo noi? Sì, M1000. Ah, la solita rotellina. Non so se si sente, ma mi stavo mangiando un ghiacciolo. Già si sente. Beh, tutte io me li ho tutti sbaffati, gelati dal frigo. Perché c'erano cornetti, cremino. Me li ho tutti sbaffati. No, ma questo era un ghiacciolo. Vabbè, sempre gelato, Ma ti piacciono la lametta, già? Sì. Ma vai a tornaggio la lametta. Per una trentina, viene. Sì, mi piacciono bene, la lametta mi piace un bel. Addirittura mi faccio fare, quando c'ho molta sete, vado al bar, mi faccio fare una lametta con acqua gassata, proprio mi piace il sapore. Ma sai cos'è? Che rimango solo io. E quindi quella lametta ci rimangono sempre, perché io ce non piaccio. Ah, ecco, hai trovato il metodo per averne di più. No, è che io non le mangio tutte, capito? Un sacco di Dio c'è. Ma poi quelli lì si possono fare anche, se vuoi farli tu li puoi fare. No, che bisogna già fare, ora fatti aggiunto. Non la forma in tutto, li metti l'acqua con la mente e via. Sì, vabbè, ma non ricorda i figli già fatti. Vabbè. Questi sono tutti, questa greffa di ragazzini. In bicicletta, tre biciclette, mi sono entrati dentro, ho cominciato a rubare cioccolati, le Pringles, le Pringles, mi chiamano rubacco e quella tubo, non so se sia presente. E la commessa se ne è accorta, ha detto, allora, sai cosa hanno fatto? Hanno preso la catena in fretta, erano appoggiate a un palo, gli hanno legato tutte le biciclette con la catena. Quando sono andati per scappare, sono rimasti buttiti. E allora, adesso ti paghi tutta la roba, perché se tu sto chiamando i carabinieri, allora tu paghi tutta la roba, allora ti hai slegato le biciclette. Questa parte pure, bambini quanto? Sui 15 anni, 16 anni. Mica da ragazzi allora, mica tanto bambini. Ragazzini, tre biciclette erano appoggiate al palo, la commessa ha preso la catena che c'era per chiudere la serranda, sono di quelle basculanti, di quelle cose le chiudono la catena, che sotto la catena con lucchetto grosso, tra l'altro la legatura di bicicletta, ma già fuggi. Ho visto molto attiva quella commessa. Per forza le biciclette vanno a tornare a prendere, sempre già sono tornati indietro, adesso sono scappati. Tanto bene le biciclette, le bicicliate, sono scappati a piedi, poi sono tornati indietro. E hanno detto, noi le paghiamo, però non ci chiamano i carabinieri, tutti rimorendo, gli sui. Ha detto, andate per la vagone, è bella figura di merda che avete fatto tutti e tre. Ah, contenti siete adesso. Sì, non so cosa ha detto quello lì, quando ci tu fuori, adesso le prime sono le mie, me le ha giubbagate e me le posso mangiare. Dai, imparato, va. Come? Però, già, sto leggendo una cosa, ma dovremmo incontrarci, no? Che ci riusciamo? Ci riusciamo. L'altro giorno ci siamo incontrati, pensavo che era una cosa così, sì che ci riusciamo, perché no, sabato ci troviamo lì. E poi ci siamo incontrati, pochi eravamo, no, e poi devo fare le cose. Cava, già ci incontriamo, sabato uscire dove? Penso di sì. Ma ci vediamo sabato. Io devo andare a Tiflia. Non so, voi se vuoi, se sabato non vado a fare niente. No, non devo fare nulla. No, non devo fare sabato. Boh, mal di qua di nuovo. Non ricompreso più io, per stare dopo. Andando via la roccia. Vagava. Come mai? Come mai li ha pigliati? Niente. E mio papà? Se la riprenda? Io già me la riprendo, già me la riprendo. Piano piano già me la riprendo. Allora, riceverà non riesce a mancare la natura? Beh, mio papà? Riceverà non riesce a mancare la neve? Oi? Boh. Se pare che faccia un terzo più grande, se non ci fa la voce. Forse anche di milioni. Ma che c'è di nacco se ti pigliava la finanziaria, ma da vivere a Rianati, però sono brutti di lui. Cazzo di adoro, uno pigliava la passata, traia. Non si può permettere manco di dare secondo tu, io non lo so. No, ma secondo me è gente che ce li hanno, li vuole togliere fuori, capito? Non so, di che dove vado a tracci con corpo, no, invece che vengono a verano, Giuseppe. Capitale dirà, ma l'ha detto, cazzo, no? La sicurezza è giusti. È lui che non... Ma non tanto lui. Lì, che amministra i soldi, la ministra la moglie, ha capito che ha fatto. Si è avvocato, non ve la varare, dirà. Ma da grave. No, per fa, si è avvocato, non ve la varare, dirà. Ma fatto lo vecchio, Ma quando vai, figlio? Ma vuoi fare qualcosa la settimana e basta. Cavagava. E poi va, me ne vado in ferie, va. Che cosa da fare, altro che... E vabbè, piano piano, ti assillava, figlia di ribare pusati, vedi, non fa... fa stressare. E non lo so, forse faccio rientrare, andando definitivamente in ferie, vedi. Chi è? Ehi, beh. Non me la fatti più nulla. Non eri già andato in pensione? Sì, ma appunto, ho detto, non me ne frega più niente, però che faccio? Rientrando, rientrando, ma definitivamente. Appaga, appaga, e come fa se sei in braccio destro? Poi se vado, vado così solitariamente, quando serve, basta. No, vagava. Quindi anche lui rimane da solo adesso. Solo nel senso che era abituato ad andare con te, sì, vabbè. Non hai detto che dove stai, sempre attaccato a me, no? Eccolo, è vero. Sono il gamo, un bericco. Adesso deve essere stradarsi da solo, mi lasci la patente. KK, ormai è giunto il momento. Problem. Sono troppo vecchio io già. Vecchio? Sei vecchio tu allora. Sono vecchio ormai. Basta, sono arrivato. Diciamo che più che altro non abbiamo la salute, quello che c'è, ci fa stancare il doppio. No, non è una questione di stanchezza, no, è questione che diciamo, non si può più, non si può più, dai. Dove l'udanto? Ciao per pace, è roba urgente, ti telefono. Cosa? E mi devi dire roba urgente, ti chiamo. No, no, no, non è niente di urgente. Non è niente di urgente già. Cava, cava, va bene. Andate. Avanti, buon corretti per pace, con trabacco per domani. Avanti, Antu. Capo. Oh, già. Voglio andare a Sampa, tu. Tu la papà è l'imbarazzo della scelta, mi va più che ti rabattenti. Mi piace a paghi su più onesto. E vabbè, l'importante è pigliarla. Beh, io c'è vero. Vabbè, non me la sto di nulla a me. Posso curare un lugaggio di va. E fatto. Io c'ho il testa così. Basta studiare un po' di abito. Ragazza. Tanto lo sai, ti dico la verità, sai come me l'ho presa la patente? Quando andavo in bagno studiavo. Tu la delle pigliate a caghette. Esattamente. Leggevo un libro quando andavo in bagno. E che stai parlando di tutta madre? No, mia sorella. Cisse. Antonio. Così la prima pesce altezza, non è che hai capito. Non me la prendevo pesante. Ogni tanto davo uno sguardo e cose, poi mi facevo il quiz. E quando ho visto che riuscivo a farli tutti bene, allora ho fatto l'esame. Che sorridente, Antonio? Gaga. Non è che ho capito quello che mi hai detto. Ho detto che mi facevo il quiz ogni tanto. E quando ho visto che riuscivo a farli tutti bene, ho fatto l'esame, tutto io ho detto quello. A capo, capo. Già va bene, già. Adesso, molto poco sì, gatto. Non fai male, pensi tu, E che cosa ha detto? Perché, Giuseppe, dimmelo a me. In sovramodulazione cosa ha detto? Già. Anche se non lo vedo, io Antonio, lo capisco già come parla, hai capito? L'ho capito anch'io. Invece io la patente, la pesa. Allora, quando io ho dato l'esame, ero il primo, no? A scuola guida. C'era l'ingegnere che conosceva mio padre, e dice chi è il primo? Poi invece il signor Villa, no, faccia passare gli altri, ha fatto passare tutti quanti gli altri, a me ha trovato penultimo, ha fatto due domande, dice può andare, venga a passare la scuola guida, ha fatto passare la scuola guida, sai dove l'ha fatto fare, solo perché la cosa, per andare all'assistenza sociale, via Tara, quella zona lì. Ha fatto fare una manovra, ha fatto dire cos'è questo? Stop. E questo a chi deve dare preferenza? A quelli della destra, sì, fai la retromarcia, ha fatto male, promosso, venga fra un mese a ritirarsi la patente. No, ma già mi hanno fatto fare tutta la retromarcia, dove c'è l'istituto degli anziani, che è la Serena lì. mi ha fatto parcheggiare e poi mi ha fatto uscire dal parcheggio e farmi tutta la retromarcia a fianco al marciapiede. Poi mi ha detto, ma me ha fatto fare quella cosa là, una cosa che c'hai la patente, i segnali te li conosci da solo, capito, te li fare da solo, non troppo, dare precedenza, vedendo gli altri, e impari. Beh, impari quando studi. Se non li studi non li impari mai. Se ti aspetti a vedere gli altri, come ho visto io stasera, un sorpasso per poco cazzo fanno tempo. Questa macchina si è passata e questo qui è uscito dalla fila delle macchine senza guardare, giù per non si sembra. Vabbè già, la questione del cambio com'è andata a finire? La questione? Di quel cambio che è uscito fuori strada. Ah, non lo so perché non è uscito fuori strada oggi, te l'ho spiegato, stanno facendo la strada nuova su Budibudi dopo Grazzella lì. Hanno buttato la ghiaia e sicuramente non l'avevano prestata, era morbida e il camion quelli da cava ci sono con le ruote dentro. Non ci ho fatto caso stasera quando sono rientrato, ma non l'ho vista, se no l'avrei, l'avrei notato. Se prendi tu Popoli Bonio, quello sta ridendo. Adesso e senti già questi qua laterale? No, e ormai c'è passato qua un po' di sguardo. Ma voi siete troppo lì che prende i colpi. No. Ma andate a te adesso, se non vuoi. Non lo so. Tanto che fine ha fatto? Vediamo a chi l'ha visto. No, che no, mi stavo riempiendo la bottiglia dell'acqua. Capo. E lei che stava a prendere a chi l'ha visto, ti ha chiamato due volte, Giuseppe. K. Va bene, la risata, vattene là. Se io l'invento, ok. Ehi, ho già preso l'acqua per spegnere il incendio, ma tu. Cappa. E frulla l'era. Poi. Che hai presa? Ehi! No, tutto io lo invento, via. A te non ti devono chiamare Antonio Pomburino, a te ti devono chiamare Antonio Pierino. Troia. Ehi, se non ridiamo qua, via, ciamociamo, perché... Vabbè, raccontaci una barzelletta, tu. So io, barzelletta. Come raccontava già? Tu le sai? La dico. Non c'è un mezzo che tu mantenne. Me. Beh, già mi è andato se ne hai due. Oh. Mi sono allontanato un attimo, mi sono allontanato. Una giugana. No. Tu. Un d'acqua, tu. Che ti sta portando a smaltire le braghiera. Ti vergono. Le braghiera dell'acqua. Hai capito la maniera di fare per prendere la patente a te? Vai in bagno e tu di lì. Io ho detto per dire che ero preso in sciolpezza senza avere problemi, capito? Studiato così quando mi capitava. Stavo aspettando già e avevo il tuo prendendo lì, assolutamente no. Io l'ho già presa. Chi non ce l'ha se la deve prendere? Ma hai ragione. A Marco ti scasciamo un po' con le risate già. Pagava. Oh yeah. C'ho un mal di denti, anche tu. Mi sta facendo soffrire questo dente. Sta muovendo, maledizione. Sta facendo, deve essere il nervo, siccome quando si muove te lo stuzzichi sempre con la lingua, ecco. E adesso ne ha toccato qualche nervo, ma vedi di esterno. Beh, ci credi che io sono da parecchio tempo, non mi viene mai vedere. Ma questo qui è perché si è infiammata la gengiva. Si è infiammata la gengiva e con questa infiammazione si è formato del pus e mi ha fatto diventare il dente debole. Lo so già. Si muove, capito? Adesso ho cavato la dentista per farmelo bloccare o che mi viene questo cava. Sì, già lo so già, mamma mia. Io non ti leggi, mi lo stuzzichi perché ti dà fastidio che si muove là, lo stuzzichi con la lingua e cosa, e ti autolesioni. Lo so, ne ho avute pure io questi problemi qua. Mi sono solo da un anno che sta parte e non faccio più male di niente. Sarà che ha giumullato la sigaretta, ecco. Io non c'entro nulla la sigaretta. Te lo spiego io cos'è, si forma il tratto con le radici. E le radici infiammano la gengiva come sono guaste, come sono cariatte, si cariano. E praticamente infiammano, fanno infiammare le gengive, e le gengive a sua volta si riempiono di pus. Lo so. E dopo con questo fattore qua si debolisce il dente e ti casca. Ma io ne ho avuto di quelle cose, io gli ho dato un'andata nella testa al muro anche. Dove c'è ho avuto la senosite, da sbattere la testa al muro. Una volta sono stato al pronto soccorso con un occhio chiuso dal dolore, tutto gonfio, tutto messo male, cazzo, sono andato al pronto soccorso, so cosa mi ha detto. Deve andare con questa ricetta in farmacia a comprarsi questa medicina, cazzo, non è che mi da bugliare i muriete, almeno bagare i mammi due ore, niente. Quanto hai fatto a coltivare un muro? Ma non è bisogno di coltivare un muro, no? Praticamente la senosite si prendeva tutta una parte, dalla testa, tutta la guancia, l'occhio, il naso, allora, tutto infiammato, capito? Se non so da che cosa dipende, ho la bocca che è tutta piena di pustolette, di brugoline interne. Vai! Bocca. La bocca che è piena di brugoline in terra. Non so. Devi chiedere. E c'è la roba di calorie, di cose che te l'ha fatta. Avanti, Peppe. Lei ha un bello capo. I pavesini già. Caravito. E mi devo rimontare. Sento. E pavesini li piacciono. Fumetti. A proposito di pavesini, la barzelletta dei bambini di quando era bambino, mi hai detto, l'avete sentito? Barzelletta, racconti, dai. No, avanti. E prima, adesso c'è pasta di fissa, adesso c'è l'acqua fissa, prima c'è la, adesso c'è la pasta di fissa per quando c'è sederino rosso il bambino, e prima c'è l'acqua fissa, perché solo con l'acqua che poi ti lasciamo l'acqua nudo tutto il giorno per raffreddarsi perché era rosso, e allora ti lasciamo a sedere nudo, e mentre praticamente il bambino era a sedere nudo si avvicinavano le zie e cominciavano, e a chi lo dai questo pisellino, chi lo dà quando è grande, la zia Mariuccia o la zia Pina? Via, ciao, dove sente? Non succede solo alle vicinette, succede pure alle mamme che si infiamma. No, a me mai, non è mai successo. Se non ti lavi ti succede? Non verrò niente. niente già. Dipende sempre come c'è la festa. Eppure ti può succedere se sei molto scorreggione. Se la tieni in corpo e esplodi, te le buttare di fare apparatura di proprio una cosa, come si dice, glielo fa, cioè devo lavarsi frequentemente tutti i giorni, perché se no sono dolore, proprio il sudore, hai capito? Mamma mia, quello che ti fa uscire la frella. Ma poi non possono mangiare robe forti, tipo affettati, robe così, altrimenti guai. Quanto deve succedere? Fa proprio male. E capito, ci sono persone che sono così. Non ti è mai successo? No, per questa storia qua che ti sia rossa. Ti sia rossa il cuello. Ecco, il fatto che mi è successo in tutto, non andavo al mare, che sfregavo le gambe, le cuscia, dall'interno cuscia l'una con l'altra, si arrossava e si formava la carne viva, allora ero dolore davvero, tipo piaga, e non potevo camminare, se avevo il costumino bagnato, non potevo camminare perché sfregando poi mi faceva quel lavoro lì. Non tanto quanto il culo, no? Cioè, le natiche. Faga, sì, c'è tanta gente che è molto delicata alla pelle. Oh, anche io sono delicata, se tu puoi dire mi dai un pizzichino, mi si ferma subito lì. Dipende, ognuno è diverso. Vabbè. Giuseppe, tu come sei, caro? Io? Ma sai cos'è che me lo fa mettere la roba lì? Il coglio, i jeans. A me mi dedica molto i jeans. No, no, a me no. Vabbè, quando sudi sì, quando sudi è vero anche a me, però se sono normali no, se non sono bagnati niente. Quando sudi, non lo fa, non lo dedica quando sudo, ho capito? E ho le gambe sudate. Allora comincia a coso. A fare male però sotto le lingue. Tanto è dolore, poi via. E metto la crema, io appunto. Prima faccio la doccia. E poi metto la crema, sono rilassato, tranquillo. Ho pagato. E adesso non esistono di creme, di pasta di fissa, questo e quell'altro, non basta anche un po' di tempo ventolato che fa passare di tutto. Tanto quello non so cosa c'è, che fa 150 metri, tanto già sudato sotto le celle, quello che dico io. No, io non sudo lì. Non sudo. Sudo molto, altro che. Devo lavarmi spesso io, perché altrimenti sono dolore. Tutti i giorni, spesso. Ma io non sudo sotto le ascelle, poi il viso magari gocciolo, ma sotto le ascelle non lo sudo. Io già sudo, cazzo, ma. Io sudo tutto dalle parti. Micidiale qua. Dipende anche dalla stanza, tante volte ti fa sudare per quello. Boh, non lo so, non lo so neanche io. E sudano se eliminano i liquidi che c'è in più. Ma soprattutto se beve in continuazione la birra, mamma mia. No, ma la birra tu, sembra che ti dissetti nel momento, però poi ti impasta la bocca. L'unica cosa da bere, quando uno ha sete è l'acqua. Quello che faccio io, la birra si beve in certi momenti, sembra di niente più di birra, io no, non ci riesco proprio. E si imbuffa, e dopo vola. Ma, potrei detto che è meglio lasciar perdere, non farmi imbriacare. Vabbè. Pure io non mi interessa. Sì, vabbè, se non mi chiede birra, non ha detto che il cazzo che ti sbrocca. vuoto, non ne devi approfittare, capito? Bevi un bicchiere di birra, però no, è basta. Stato, ma c'è gente che è stata che se ne beve tipo qualche persona là che abbiamo fatto il nome, se ne beve più birra di lei e più contento è. No, però non sono del tipo, no. Ma tu lo sai che con il tuo ragazzino proprio il sapore della birra a me non piaceva? No, a me già piace, però lo devo bere in certi momenti. Magari mangiando la pizza così. Se no io non la bevo la birra, non bevo niente. Qua. Io lo stesso. Ma a me la birra mi piace con la cosa, con la gattosa, già. Vabbè, parlo a me, se la bevo un bicchiere non mi piace berlo tranquillo, no? Senza nulla dentro. No, ma io sono abituato, a volte quando c'è un amico, come ha detto la prima volta che siamo andati al cibo, abbiamo bevuto qualche bicchiere di birra, poi ci siamo andati. Ma quando sono con compagnia lo bevo la birra, però c'è la bella io normalmente tu guai che fagazza. No, non sono il tipo, no, che qualche volta sì, ma devo essere tranquillo, se no non bevo. Io preferisco bere, fermi una bottiglia di Coca-Cola che la voce di birra, non so perché. Invece c'è momenti che la voglio, c'è momenti che no. Hai necessità di berti un bicchiere di roba gasata e bevi il bicchiere di birra, perché non è che ti risicchi, però hai la voglia di bere qualcosa lì, capito? Però c'è gente che tanto che per la birra tanto va matta, la mattina presto, la colazione, eh? C'è una persona che veniva al circolo, tanto, e non prendeva il caffè, pigliava direttamente alle 10 di mattina, pigliava il peluccino, e gli ho detto, ma scusa un attimo, come fai tu a bere la birra a quest'ora, alle 10 di mattina, caro? E io mi alzo presto, mi mangio il panino alle 8:30, 9, e ho bisogno di bere il birra. Come te che tu ci mangio il yogurt della pizza e ci beve una pura di birra, ma l'hanno visto. Hai capito? Io alle 10, vedo questo tipo qua, cazzo che ci beve, 1, 2, 3. Quattro peroncini, state le 10 di mattina, altro cazzo brutto, ma non ti nausea, no, beh no, altro, a te. Lo viaggio, mi mandano visto, oh, yeah. E nato questo burro di Belgium, bevendo vecchia Romagna, bebe. Vabbè, ma quello lo facevi cazzo quando faceva freddo, quando veniva la mattina presto alle 5, dopo il caffè, l'ance, la vecchia Romagna, i cacciatori, avevano quella roba lì, dopo il caffè. No, il caffè è corretto con l'ance, mamma mia, cazzo, guarda che è una cosa micidiale. Poi quando arriva la stessa Italia se ne abbizzano, avanti già. A me. Sei andato a prendersi qualche pastiglia di anche che fa di lì. Sicuramente. Sono veramente schifo quando vedo. Quando a me viene volta a stomaco da mattino presto. Poi generalmente alle 5 di mattina, no? Sai che cosa? Bevono direttamente tanto o il whisky o la vecchia Romagna, e boh, io di questa cosa non ne ho mai bevuto la mattina presto. Quindi se mi dici tanto che quando si giostra, hai capito? Quando si giostra quello che capita ti vedi, ma devi essere vergognosa, capito, per sopportare la questione, ma c'è da sano, tu stai ammazzati. Uno deve anche contenersi. Vedete, c'è segnato di imbriaco. Giuseppe. Oi. Dove c'è segnato di imbriaco? Magari in casa è sempre fatto. Oppure l'avevo visto in casa, ma non ha detto cazzo delle cose, appena alzato la mattina, cazzo vinetto, cazzo vino rosso. Ma che cazzo fai tu a bere questa cosa? Chi foga? Cazzo, già dall'ora, cazzo, mi viene buttato una cosa, vedete il mangiare un vino, ma come cazzo fai? Lascia perdere l'ora di pranzo, ti bevi cazzo sì, un campare, due campari, ma un aperitivo, ma cazzo vedete il mangiare, appena apre, cazzo, un vinello, ma cazzo, mangiare, non ho capito come c'è niente, come cazzo, c'è il fegato. Sì, già di Buruette già arrivano dunque. Deve essere certo, perché tu, se tu noti, tu noti, quando ti capita, no, all'apertura, alle 10, a mio fratello, tu prova a passare e vedi che pare che hai niente, ci pita, tu prende le cose, si mangia la pasta e poi si beve tanto il Jack Daniels. Tanto, ma come tanto fai? Arrivederci di mangiano. Fuga. Ma perché tuo fratello le colazioni fa anche? Fata. Ah no, non sapevo che il circo lo facesse. Portare forza, la gente va lì, fa colazione, il caffè, mangia la pasta, il succo di frutta, basta, capito? Ma tanto bene, tanto, mangiamoci la fresella, quella povera senza il buco, senza crema, con il buco, e poi dopo ti bevi il caffè di accademia, tanto mi bevi il buco, ci vuole fegato. Gianni? È ancora aprile, Mazzano? Alle 10. Certo. Però, dalle 7 sono qui vivi. Vorrei fare colazione, quel bar là. Allora, di solito andiamo sempre via Zaffarino, dove c'è Super Bar. Dove? Zaffarino. Di fronte a Lina. Giù. Lo lì vado dopo, vado. Ah, no. Dove c'è lì dove... Come ti posso spiegare? Dove c'è quel Lucariello? Ah, ho capito, lì. Sì, yeah. Ho capito. Attaccata a Lucariello, dai, ho capito. Sì, di fronte, dai. Gianni deve essere addormentato. Ma c'è Gianni! Gianni è imparato in cattolese. Oh, vabbè, dai. Oh, anche stanco, è stanco dal trabacco, dunque c'ha anche ragione. Ah, non si è sentito nessuno. Oggi, in tutto il giorno. Io neanche io. Io l'ho acceso stasera, alle 9, non c'ero tutto il giorno. Lavorando? No, ero impegnato con mio fratello a fare commissioni, sono salito a mezzogiorno e poi basta. Ho mangiato e oggi è stasera, adesso va, un'oretta fa. Ma molto sono intesserati, Giuseppe. Cos'è? Molto sono intesserati lì. E io ce ne sono. faccio, dovrebbero fare le tessere nuove, speriamo. Penso. Poi a casino, ma c'è, non c'è nessuno, tu, neanche lì, neanche il circolo, un periodo che la gente è tutta al mare, chi lavora adesso è gente che sta al mare, tipo Platamona, un po' Alghero, Porotone, cioè, e compagnia bella. Bravo. Ti stavo dicendo, perché le tessere nuove? Perché ogni anno si rinnova, no? Capito? Perché no, va rinnovata la tessera, ai cosi vanno rinnovati, capito? Ai succi vanno rinnovate le tessere, se no, non lo so, ogni anno la cosa, quello che rinnova le tessere, ci dà le tessere nuove, noi le dobbiamo far firmare e tutto quanto. Che euro costa? Il circo si chiama Acri San Paolo. Ah, sempre Acri siete voi. No, adesso è corso, non è Acri, però è C6, hai capito? Ah, stavo dicendo, musica ne organizzano. Sì, organizza. Il venerdì e il sabato c'è il karaoke, capito, però c'è poca gente, adesso non c'è nessuno. Non so se l'hanno eliminato oppure lo stanno ancora facendo, non lo so. Però da settembre inizia a trattare bene, capito? Settembre-ottobre inizia a venire la gente, lavora, hai capito? Lavora. Certo. Ma cosa fa, solo karaoke o anche qualche gruppo sassareggio? No, il venerdì fa karaoke normale, e il sabato cioè, fa karaoke, però fa anche cosa, mette musica in sassareggio, hai capito? E qua invece fanno le serate dal vivo proprio? No, quelle no, quelle non le facciamo, dal vivo no. Abbiamo fatto una volta, però c'era accordo, cioè è venuto a cantare da noi, è venuto a cantare Luciano Gallè. Se lo so. Invece qua la Pedolce, qua dove c'era il circolo lì, anche c'è il circolo Giovanni Giotto e cosa. Lo so, le serate dal vivo che fanno? A Lampadura. Lo so. Altro c'è, diciamo, è più organizzato, è tutta, questa cosa di organizzazione, capito? Poi Giovanni Giorgio è conosciuto, c'è molta gente, tutto quanto, capito? Giustamente che c'è molta gente, perché quando una persona la conosci, giustamente vanno dove conosci la persona, capito? Certo. E vabbè, qua non ho un altro modo di fare le cose anche. Lo so, fanno le feste, fanno qualcosa di fronte alla scuola, nel parco, e fanno la musica sassarei, gruppi sassaresi, hai capito, dal vivo. Tu dovresti allo circolo, devo cantare. Ma sai quanti gruppi sono venuti qua? Uia, alla grande, mi ha dato si intende, e cantende. E poi, Giovanni Giotto canta sempre in giro, hai capito? Dopo l'invitano lui va, hai capito? Adesso, da poco era produttore, hai capito? E dunque, adesso, non lo so, Gianluca dice che dovrebbe essere, che sta organizzando questa cosa e non so che festa è, capito? Però ci sono belli gruppi che cantano in sassarese, capito? A Corludora? E a Corludora sì. Che si vede la canzone sassarese? Vabbè, giustamente. è come la girata dei carri, no? Quando ho la girata del carrello dei carri c'era un po' di musica che stava cantando anche Faccia di Truta, poi c'era lo Zarretto e compagnia. Insomma di musica. Zarretto, Faccia di Truta, a me è nuda, non me ne vado, a me è nuda. Il Truta, lo Zarretto. E ve ne gioco canzone, vedete. Sì, io a carità, io vabbè, ognuno lo fa per incrementare qualcosa, un po' di lavoro, capito? Ma tu, anche quando siamo saliti su, di fronte a Piazza d'Italia, lì, in piazza Corso, c'era musica dal vivo, karaoke, stavamo facendo karaoke, e ci siamo fermati. Ci abbiamo preso il caffè e stavamo ascoltando un po' di musica e quello che stavamo cantando abbastanza bene e ci siamo fermati, ma giusto per dare svagarti un po', capito? Non è che siamo rientrati tardi. E venito a campare, gnogno. E adesso se tutto va bene, forse anche la figlia di Gianni metteranno con il ragazzo a fare questa cosa del karaoke, fare un po' di pubblicità, vanno nei locali e si fanno i soldini, capito? Ciao. Sto pensando, non vedi tempo fa, vediamo, e che si hanno soldi, di prendere un furgone e cosa, per comprarmi un impiantino per il momento iniziare. A fare le serate. A fare il furgone. Ma con l'impianto, amico, luce, impianto, roba del genere. Scappa. A fare spettacoli in piazza. No, anche per il momento privati. Ah, tipo matrimoni, quella roba, feste di compleanno. Ma poi bisogna studiare, farci dare i permessi per fare così piatto, eccetera eccetera, e poi pian pianino quando ingrani i soldi prendi come se ci già comprare l'impianto più umano, più grande ancora, più grande ancora, e comincia a fare concerti. E cosa devi fare? Devo avere i permessi, è come nel corso della quali quelle che vendono i tutti. Torrone, quella roba là, se io prendo un altro ciume, loro chiedono i permessi al comune, quale piazza deve andare, pagano e le danno il posto, capito? Se vuoi lavorare così, e lì devi anche avere un certificato, non è che puoi montare la roba così. Beh, deve essere tutto quanto proprio dall'altro, è capito, che c'è tutto in regola. Il servizio già mi sarebbe piaciuto. No, a me mi aveva fatto conto, se non volevo, capito, tanto prendo un'ingestione, mi aveva fatto conto, no? E poi, quello del quadrato. Mi lascia perdere, ho detto, tanto che non devo uscire fuori capo con te. Ma dai che si lavora qua, là, ma lascia perdere che non ho soldi prima di tutto, ma poi non investo in quel posto lì. Se devo fare una cosa la faccio. Certo, prendo un magazzino, faccio la attrezzatura e mi faccio locale costruito, non ho capito. No, invece se bagliano proprio i chivi che si investe bene, perché c'è la veranda, c'è tutto. Però insomma, a controllare tutta quella gente, voi, basta, io non voglio più sapere cazzo di gente, cazzo imbriate a casa da voi, sì, cazzo, ciafarra, in cazzo, voi, lasciamo perdere, non ne voglio più sapere, niente cazzo. Accoltellandoci cazzo con bottiglie, capito? Poi, no? non è cosa per me, no. E comunque lo potresti fare sempre in diversa maniera, cioè lo potresti fare come una pizzeria, un corso di ristorazione piccolo, più il bar. Sì, quello sì. E ci sono i panini, le bibite, il caffè e tutto quanto il resto, capito? I muri, quella roba lì. Tipo un fast food, hai capito? So, lì c'è anche il forno delle pizze, c'hanno. Lo so, ma no, per questa malattia so neanche troppo. Ne voria. Un bel. No, se per travagliare a paese no. Ha capito. Che il 15% dell'incasso doveva andare a lui. Cazzo, non è manco, no. Vai, dove stai andando, l'avevo detto. Per quello gli ho detto a lasciare perdere, che nel caso se lo faccio, lo faccio per me e poi pagare i dipendenti, in caso i dipendenti vogliono assicurarsi. E lui lì assicurati non c'è nessuno, massimo una persona c'è assicurata. E poi. Chiappa, un po' di rischio devi, ma un minimo di assicurazione gliela devi fare, se no ti non ti arriva le cose. Se era stato un tot al mese si poteva anche fare. Beh, lui c'ha lì, c'ha quattro ragazzi. Quei quattro ragazzi, due sono assicurati e due no, perché sono part-time, capito? Fanno tre ore, mi sembra che fanno tre ore la sera, tre ore la sera, tre ore alla chiusura, capito? No, ragazzi, vado da... apre la sera, apre, da voi sarà il di mangiare. Sto dicendo, sono vado dalla sera, cosa posso dire, dalle sette di sera sino alla chiusura, capito? E quante ore so? Fai conta, dalle 19 sino alle 6 di mattina, non beh. E l'assicurazione paghi parecchio, Ma vabbè, così ci puoi arrangiare un pochino, però alla fine, cioè, se così tanto voi la sapete. Poi, no, perché... Oh, yeah. Vabbè, tanto già non rientra più e ci sentiamo un più tardi, oppure domani mattina, domani, a tu. Avanti. Avanti. È stato per lontano. Per quello ho detto, Gianni deve essere, ha preso la pastiglia prima di 20 e ha fatto che è stanco da lavoro, facciamolo riposare. Vabbè, tanto ho visto che non è entrato nessuno. Allora vi saluto io, buonanotte a tutti, adesso ci siamo là. Ciao già, buonanotte, con i loro, dai, non ti ho fatto male, dai, ciao. Buonanotte, Giuseppe. Allora, è sorta? Va bene, speriamo di trovarlo, dai. Non mi fate entrare in inganno, girare per... una rotonda e la rotonda la vedete, la rotonda grande a destra 2,7 km, per chi è lì. Oh, tu c'è il navigatore impostato con le coordinate, è possibile non trovarlo, no?